Bene, io se ci sono interventi, io ho solo il compito di portare il microfono, no, non di fare altro. Interventi, domande, domenica. Grazie, buonasera. Abbiamo organizzato una bellissima serata con delle personalità straordinarie, quindi sono veramente contento di stare qui con voi. Ora, due parole volevo fare proseguendo il discorso di Raul. Noi abbiamo vissuto una vicenda della Repubblica che è sconosciuta ai giovani, sconosciuta a noi stessi, ma non ne parliamo ai giovani. C'è una vicenda, diciamo così, nera che si è vissuta nei bassi fondi della Repubblica, nella quale ci sono stati colpi di Stato, ci sono state violenze di ogni tipo, c'è stata la strategia della tensione che ha provocato circa 900 morti nel nostro paese. Ora, chi dobbiamo ringraziare per la strategia della tensione che hanno, diciamo così, attuato come, diciamo così, i manovali, i gruppi neonazisti, neofascisti? Dobbiamo ringraziare chi sta oltre Atlantico, insomma. Dietro questa strategia, ce lo dice chiaramente il giudice Salvini, c'è la NATO. C'è la NATO che doveva mantenere il controllo sul nostro paese per evitare che seguisse strade politiche non gradite al centro dell'impero, e lo ha fatto attraverso il controllo dei servizi di sicurezza e attraverso l'uso di, diciamo così, della violenza politica attribuita, distribuita in vario modo. Anche la vicenda delle Brigate Rosse è una vicenda molto oscura, soprattutto la vicenda del rapimento di Moro. E allora, vedete, cerchiamo di riportarla ai dati attuali. Oggi siamo immersi in una guerra, diciamo così, terribile, e la scintilla qual è stata? Che l'Ucraina, dopo il golpe del 2014, ha sentito l'esigenza di entrare nella NATO e l'ha scritto pure nella Costituzione. E la Russia, non so se ha ragione o ha torto, comunque fin dal 2008 aveva fatto presente agli Stati Uniti che non avrebbe mai accettato l'Ucraina nella NATO. Siamo arrivati al gennaio del 2002, dell'anno scorso, la guerra ormai era preparata, i carri armati avevano acceso i motori, stava per scoppiare, tutti quanti lo sapevamo, e si riunisce la Commissione Esteri e Difesa di Camera e Senato. E l'ineffabile ministro, cosiddetto ministro degli esteri italiano, un tale Di Maio, si presenta e fa: noi siamo per la pace, noi siamo per la trattativa, noi vogliamo fare le trattative, eccetera, però ci sono dei principi non negoziabili. L'Ucraina è un paese sovrano, e se sovranamente decide di entrare nella NATO, non gli possiamo dire di no, è una scelta sua che fa parte della sua sovranità. Però vedete, noi la sovranità l'abbiamo persa, almeno fortemente ridimensionata, proprio per il fatto che abbiamo la NATO sulla testa e che ci ha fortemente condizionato nel corso della storia della Repubblica. Quindi questa cacciata che bisogna rispettare la sovranità, se l'Ucraina vuole entrare nella NATO fa parte della sua sovranità, no, perché avere delle basi militari straniere, avere un dispositivo militare di una potenza straniera nel proprio paese non è una cosa che accresce la propria sovranità, semmai la decresce e rende questo paese fortemente dipendente da chi ha in mano, diciamo così, lo strumento militare e lo comanda. Quindi bisogna conoscere la storia dell'Italia, farla conoscere anche per reagire alla narrazione irrealistica e assurda che viene fatta e che ci fa presentare, diciamo così, ci fa accettare questi eventi terribili della guerra come se purtroppo si trattasse di una necessità che non si poteva fare nulla per evitarla. Certamente la guerra poteva essere evitata facilmente, prevenuta e impedita, ed è altrettanto grave aver scagliato da parte della Federazione Russa, aver scagliato le proprie armate contro l'Ucraina, quanto è grave non aver fatto niente per impedire che ciò avvenisse, anzi per aver provocato, diciamo così, questa reazione. E quindi dobbiamo lavorare molto, soprattutto con le giovani generazioni, per far capire che non viviamo nel migliore dei tempi possibili, che la NATO non è, diciamo così, la difesa del mondo libero, non è, diciamo così, il trionfo della democrazia e della libertà, ma dietro ci sono cose molto, molto brutte. E quindi poi, se c'è questa carneficina in corso, c'è una forte responsabilità che proviene dal centro dell'impero, e noi ne siamo corresponsabili per la, diciamo così, la codardia e il servilismo delle leadership europee. Grazie. Altri interventi? Domande? Io non so ballare, quindi non chiedete cose. Volevo riallacciare all'intervento che ha fatto Domenico Gallo, appunto intervento importante che tocca temi ancora di un'attualità spaventosa. Noi come istituto, questo sia Aldo sia Sonia, già da qualche anno, anche in relazione al fatto che c'è una legge votata dal Parlamento che il 9 maggio è giornata in memoria delle vittime del terrorismo e delle stragi, noi già da praticamente da 10 anni, ma forse anche di più, all'interno del progetto Scenari del XX secolo, rivolto alle studenti dell'ultimo biennio delle scuole superiori, lo dedichiamo per l'appunto a questo argomento. Quindi abbiamo parlato sia di tutta la stagione stragista, quindi partendo da Piazza Fontana, invitando le associazioni dei familiari delle vittime, invitando gli studiosi, i ricercatori che in questi anni hanno pubblicato dei lavori veramente importanti, di spessore. Abbiamo dedicato un momento al rapimento, all'uccisione di Aldo Moro, invitando appunto la direttrice dell'archivio Flamini di Roma, la dottoressa Ilaria Moroni. Abbiamo invitato in quell'occasione Giovanni Ricci, figlio di Domenico Ricci, che era alla guida appunto della Fiat 132 quella mattina, e poi la prossima settimana, quindi giovedì prossimo, dedicheremo appunto questo approfondimento al terrorismo di sinistra, quindi Brigate Rosse, Prima Linea, insomma tutto quello che ne consegue per quanto riguarda terrorismo di sinistra. Quindi ecco, questo ci tenevo a precisarlo. Cioè, poi ovviamente, come dicevo, da evento a evento dipende un po' dagli insegnanti come hanno preparato i ragazzi. E molto spesso, io lo dico, quindi qualche volta mi capita di avere a che fare con insegnanti che non sono molto informati su questi eventi, pur avendo cercato di fare il suo dovere, di aver messo in campo il loro ruolo, però qualche lacuna l'abbiamo notata. Quindi anche noi come istituto siamo qui per questo. Quindi ci sono stati alcuni eventi in cui i ragazzi sono rimasti coinvolti sia dal relatore sia dai familiari delle vittime, quindi hanno fatto domande, quindi erano rimasti curiositi, ma in quella curiosità che è con sé al dramma, alla tragedia che hanno rappresentato e rappresentano queste vicende. E in altri, purtroppo, questo vale non solo per questa giornata ma anche per altri appuntamenti, vediamo che proprio c'è un distacco, cioè questi ragazzi dopo un quarto d'ora appunto di intervento vanno letteralmente in apnea, quindi qui ritorna un po' tutto quello che ci abbiamo detto questa sera e quindi giusto aver fatto una serata come questa e porsi delle domande come fare verso le giovani generazioni e non, perché anche chi è, diciamo così, diversamente giovane qualche lacuna sulla storia dell'Italia repubblicana, là, ecco, solamente questo per precisare. Grazie. Bene, ci sono interventi? No, perché tra l'altro su quella questione che c'è sul terrorismo di sinistra, no? C'è tutto un dibattito, io ho letto un libro e io sono uno di quelli che rifiuta l'idea, mi dispiace che l'abbia scritta Rossana Rossanda, l'idea del ritratto in famiglia. Io non ho nulla a che spartire con quel tipo di attività e sono uno di quelli che, e qualcuno qui aveva un ruolo assolutamente di maggiore importanza, che ai tempi dell'università 77 e poi 78 stavamo in mezzo, facevamo politicamente il lavoro di, chiamiamolo, interposizione, cioè assolutamente né con le BR e neanche con la stretta repressiva dello Stato. Infatti abbiamo preso schiaffi di qua e di là, se ne toccava come ciui, detto proprio in pistoiese, se poi volete lo traduco. Eh sì, le abbiamo date, ma di volte le abbiamo toccate, perché però adesso ritorna fuori, no? Questa cosa che veniva citata prima, la cosiddetta commissione d'inchiesta, ma commissione d'inchiesta di che cosa? Di che cosa? All'Università di Roma il primo morto dopo tanti anni, diciamo nel secondo dopoguerra, si chiamava Paolo Rossi, socialista, che poi poverino era socialista, cioè, passava di lì, insomma, o quasi, era manifestato, l'hanno picchiato, l'hanno buttato di sotto e è morto. Allora se si deve fare commissione d'inchiesta si parte dal 66, capito? Sui movimenti sociali legati al mondo universitario, al mondo della scuola, quello è successo nel 68, negli anni 70, c'erano posti in alcune città dove tu, lo scrive il libro, ma posso dire che era così, non se avevi l'eschimo, ma se Dio ne guardi avevi gli scarponi un po' grossi e non avevi le Barro, era una marca a quei tempi molto famosa, non passavi. Perché ti picchiavano? Avevi voglia di avere 16 anni, ma ti picchiavano, chiaro? E allora, questi sono effetti che per 20 anni, negli ultimi 20 anni, in realtà sì, è vero che a Roma sono successe tantissime cose, ma cos'è che ha colpito tantissimo l'immaginario di 20 giorni fa? Perché a Firenze queste cose, nonostante ci siano sedi, Casa G è una struttura interna a Azione Giovani e c'è da una vita, ma non si sono mai permessi di aggredire negli ultimi anni, negli ultimi 2-3 lustri, di aggredire qualcuno, salvo qualche spintonata. Hanno fatto il salto di qualità, è questo il dramma. Il dramma è che noi stiamo assistendo a un salto di qualità che per ora ha avuto delle buone risposte, perché la manifestazione di sabato scorso a Firenze è stata importante, significativa, secondo me, nelle scuole, spero non solo a Firenze, spero anche, come dire, nella profonda periferia, come Prato, come Pistoia, si ricomincia a discutere. Spero molto che i ragazzi e le ragazze si facciano delle domande, magari si informino anche, ma non per, come dire, costruire opposta barricata, no? Perché non regge più, non, non è una questione di physique du rôle, è proprio una questione di momento storico profondamente diverso, non è quello. Però partecipare alla ricostruzione di memoria anche dal punto di vista delle giovani generazioni, io penso che sia un fatto positivo. L'intermezzo l'ho fatto, però qualcuno ora tocca a qualche di un altro. Altrimenti facciamo una breve replica se volete farla e poi si chiude. Bene, allora io vi ringrazio veramente per la partecipazione, perché ci tenevamo, insomma, anche perché questa cosa dell'AMPI e del Centro di Documentazione, insomma, che sono organismi molto attivi da noi, secondo me questo è un pomeriggio importante. Sicuramente riusciremo poi a mettere in giro anche la registrazione di questo pomeriggio. Grazie ovviamente a tutti gli ospiti e grazie a tutte e tutti voi.